Democrazia in Turchia e questione curda. L'ingresso della Turchia nell'Unione Europea può avvenire a condizioni che le riforme annunciate siano concretamente attuate in tutto il Paese e che la Turchia accetti di aprire un negoziato sul riconoscimento dei diritti e delle libertà del popolo curdo, sulla violazione dei diritti umani, sul caso Öcalan e sui profughi politici. Questa è la premessa della conferenza stampa organizzata dall'associazione Azad, che in curdo significa libertà, alla Sala Gialla del Senato della Repubblica. Angela Bellei, presidente di Azad, denuncia come le riforme in senso democratico che la Turchia sta varando per il suo futuro ingresso nell'Unione siano del tutto insufficienti per gli standard democratici europei. La democrazia europea, alla quale la Turchia vorrebbe aderire, altro non sarebbe che un palliativo sfruttato per aprire negoziati politici con l'Europa, come insufficiente è l'attenzione dei paesi europei sulla questione curda. Presenti anche i senatori Gigi Malabarba, capogruppo di Rifondazione Comunista, e Daria Bonifetti, esponente di esse della Commissione straordinaria sui diritti umani al Senato. Il loro intervento si è concentrato sulla grande opportunità che l'ingresso in Europa dovrebbe dare al processo di democratizzazione interna della Turchia, la quale si ostina a negare l'esistenza di un problema curdo, nonostante che i curdi in Turchia siano circa 20 milioni su 75 milioni totali. La Commissione straordinaria sui diritti umani al Senato, ha dichiarato la Bonifetti, si augura di poter avere il giusto ascolto nelle opportune sedi quando sarà messo all'ordine del giorno l'ingresso della Turchia in Europa. Il nostro sarà un ruolo di monitoraggio non solo sulla questione curda, ma più specificatamente su ciò che ci compete, i diritti umani. Per il senatore Malabarba, nella Convenzione europea firmata recentemente a Roma, i diritti umani e politici sono poco garantiti. Ma in ogni caso la Turchia rimane fuori anche da quelli previsti in quel documento. L'impegno di Rifondazione, che ha una responsabilità anche sull'attuale detenzione del leader curdo Öcalan, dice Malabarba, sarà quello di smascherare i processi democratici che la Turchia adotterà solo come facciata per l'ingresso in Europa. Due gli esponenti curdi presenti alla conferenza stampa, Veli Bujuka Sahim, vicepresidente del Partito Popolare Democratico della Turchia, l'organizzazione politica dei curdo turchi, e Mehmet Uksel, dell'ufficio di informazione del Kurdistan in Italia. Il primo ha sottolineato come la questione curda sia tuttora tra i più importanti problemi in Turchia. Quello che il suo partito chiede è l'amnistia generale per i reati politici commessi dai curdi in Turchia e la fine della detenzione in isolamento totale di Öcalan. Perché fino a quando il leader curdo sarà detenuto in quelle condizioni, l'approccio alla questione del suo popolo continuerà ad essere di tipo repressivo e negazionista. Mehmet Uksel insiste su come l'educazione sia il campo dove si debba sviluppare maggiormente il dialogo, ma nonostante ci sia una legge nazionale che riconosce il diritto ai curdi di parlare la loro lingua, ciò è di fatto impedito, come dimostra il recente scioglimento del sindacato dei professori curdi, che nel suo statuto aveva inserito la clausola dell'insegnamento della lingua madre come scopo fondante. Sentiamo un contributo rilasciato ai nostri microfoni da Mehmet Uksel. Sì, specialmente è importantissimo di poter sottolineare in questo percorso che è molto importante che avviene, che è l'allargamento dell'Unione Europea con la Turchia, e in cui i diritti sono stati sottolineati e i passi vengono fatti concretamente e giusta ascoltando tutte le parti, perché qui vediamo una situazione che i curdi vengono esclusi da un percorso totale in questa situazione, perché ancora la Turchia sottolinea che ha fatto passi riguardo alla questione curda, ma ovviamente questi passi sono anche nello stesso tempo per non riconoscere i curdi a un lungo termine. Per quello questa conferenza stampa è stata fatta, perché ci stava anche un personaggio molto importante del mondo politico curdo della Turchia, vicepresidente del partito DEAP. E per questo abbiamo fatto una conferenza stampa dopo che tutti i colleghi che abbiamo fatto qui in Italia.